Radio 24 Reportage. Napoli, un esercito di ragazzini in strada, di Laura Viggiano. Oh, 43, nasco sarinte, i commiesse piazza, sono disparata, fanno cose pazze, 60 anni li spara tutta pizza, son che guaione, Napola, son che scugnizza, son che guaione, Napola, son che scugnizza, son che guaione, Napola, son che scugnizza. Una volta si parlava degli scugnizzi, oggi si parla dei muschigli e dell'evoluzione del ruolo dei ragazzi che sono utilizzati dalla camorra, tenuti allo sbando per la strada, dove la violenza e le armi sono di casa. Ma quelli purtroppo sono bande, cioè quella mia nipote stava camminando a Mergellina, 5-6 di loro, gli ruppero il naso, cioè volevano proprio attaccare briga. Siamo abbandonati, proprio non c'è niente qua. Non c'è alternativa perché non c'è lavoro, non c'è questa aggregazione per i giovani, stanno qua dalla mattina a sera in strada. Questo è il problema. Perché amate questa paura? Da sta sempre sta... Non ce l'ho, sinceramente. Paura non ce l'ho perché esce. Perché a me mio figlio sceglie fino a una certa ora, perché io a un certo punto ho paura. Perché io può succedere così, come è successo a gente. Squilibrate, che purtroppo. Non lì fra di loro, che purtroppo sono ragazzi pure dispersi, sperduti, non hanno niente sti ragazzi. Io allucco ogni minuto un coppe e bocre che creature. Coppe in mano, re, signore, sta città. Sono voci del quartiere Sanità subito dopo i funerali di Jenny, nella piazza in cui Jenny Cesarano, una domenica mattina di settembre, 2 settimane fa, ha perso la vita a 17 anni, colpito nel corso di una sparatoria che molto probabilmente ha visto protagonisti altri ragazzi, forse suoi coetanei. Adolescenti parte di una gioventù bruciata dalla droga, dallo spirito di emulazione che non permette distinzioni tra fiction e realtà, dall'assenza di prospettive e dalla sete di potere, sono figli di una camorra matrigna che oggi a Napoli non riesce o forse non si vuole preoccupare di controllarli. L'analisi del prefetto di Napoli, Gerarda Maria Pantalone. La fotografia che è emersa, l'abbiamo vista tutti, quella di un coinvolgimento spaventoso di giovani e di minori come vittime e come protagonisti di una delinquenzialità, di una criminalità che va combattuta, in ogni caso come vittime io direi. Fare di tutta un'erba un fascio non è mai giusto. A Napoli ci sono migliaia di ragazzi per bene, va detto, ma anche migliaia di giovani che vivono una sorta di limbo. Nei quartieri e nei rioni popolari del ventre di Partenope forse sono loro quelli più a rischio. Chiedono tranquillità, quella che in piazza San Vincenzo alla Sanità, ci dice Mario, hanno respirato la notte della veglia funebre per Jenny Cesarano, semplicemente perché c'era una camionetta della polizia. Noi qua a mezzo vogliamo stare tranquilli, così. Un messaggio ai ragazzi che invece per Napoli girano armati. Non dico niente proprio, in che sono le parole, che non so buona, a 17 anni che pistola a mano. Non è la prima volta che la camorra uccide minorenni, ma nel rione Sanità forse per la prima volta è successo qualcosa che ha scosso le coscienze e ha portato centinaia di donne, ma anche molti ragazzi, in strada per chiedere giustizia. Al fianco della chiesa compare Alex Zanotelli e Don Antonio Loffredo, da anni impegnati nel quartiere. Nella Napoli dai 1000 volti ci sono anche i progetti di Don Antonio Loffredo, realizzati nella rione Sanità con i ragazzi del posto. In circa 10 anni sono state create diverse cooperative, si occupano di artigianato, visite guidate alle catacombe di San Gennaro e San Gaudioso, offrono opportunità e impegnano circa un centinaio di ragazzi, ma non è abbastanza, in troppi restano fuori. E padre Antonio, parroco della Sanità, che ha dichiarato lutto a oltranza dopo la morte di Jenny, chiede risposte concrete alle istituzioni. Le risposte concrete sono semplici: noi vogliamo una videosorveglianza immediatamente, noi vogliamo che sia trattata questa città come il resto della città e non diversamente, non siamo figli di un Dio minore. E quindi in questo popolo una parte, io dico io a volte privilegiata, ha potuto utilizzare gli strumenti, ma la mia domanda è gli altri? e gli altri, cioè avere delle cooperative, avere delle associazioni, avere un piccolo teatro, avere l'orchestra sinfonica è poco, non risponde a me come parroco, al numero di tanti giovani che affollano questo quartiere. La sanità, come Forcella, i quartieri spagnoli, Rione Traiano e più in periferia Soccavo o Ponticelli, la situazione non cambia. Nella Napoli Est, teatro di recenti omicidi di camorra, non ci sono i vicoli e i palazzi antichi, ma il disagio giovanile è pesante. La povertà e la carenza di servizi sono più che evidenti. Flora è una madre molto giovane, la incontriamo seduta su una sedia a un incrocio con due dei suoi tre figli. A differenza di altri, lei accetta di parlare. Che cosa chiederebbe lei da mamma alle istituzioni? Cosa devono realizzare anche in un quartiere come Ponticelli? Qualcosa per i bambini, ma anche noi genitori che non lavoriamo, non facciamo nulla, purtroppo siamo disoccupati. Camminando in via delle Metamorfosi a Ponticelli incrociamo anche un gruppo di ragazzi. Mirko, 18 anni, non nasconde la sua sfiducia nelle istituzioni. Sarien, canna, io spacciare, io trovare, io fare la vina, io fare questo. Quello che succede a Napoli. Tu studi ancora, cosa fai generalmente? Lavoro, il panettiere. Che cosa manca? Che cosa chiederesti alle istituzioni, al governo, al comune, insomma, che cosa serve? Quando mangia solo loro, come poi si dice, i piattici mi mettono a faticare, quando mangia solo loro, ahí ci stanno. Non hai fiducia? No, non devo avere fiducia. Senza soluzione di continuità tra il centro di Napoli e Ponticelli c'è Barra. Lì Save the Children ha aperto a luglio un secondo punto luce. In soli due mesi sono già 250 i ragazzi coinvolti dalle attività ricreative e di supporto scolastico organizzate gratuitamente per i bambini. Ma il dato nevralgico resta quello della forte dispersione scolastica e delle notevoli carenze di servizi e opportunità formative, scolastiche e extrascolastiche. In campagna l'84% dei minori non accede ad una serie di attività ricreative, sportive, formative e culturali. Secondo Save the Children, ben il 24% non raggiunge neanche le competenze minime di lettura. Per togliere i ragazzi dalla strada c'è bisogno di un salto di qualità, secondo Rosario Duonno, rappresentante di Libera Campagna, referente per le scuole. Io penso che nei giochi ognuno deve fare la sua parte e la scuola deve offrire opportunità per dare quell'occasione in più ai ragazzi, per dire oggi ho fatto una cosa bella. Allora incontrare un museo, portiamo al museo, sì, perché quando mai forse un bambino che semmai ha vissuto tra genitori spacciatori, fra fratelli delinquenti, assassini e ha assistito a cose di questo tipo, poi può avere il piacere di incantarsi, di entusiasmarsi, di emozionarsi davanti a un'opera d'arte. Allora se io riesco forse a tirare fuori un attimo quell'emozione, fargli capire poi com'è bello essere da quest'altra parte e dire, ecco, io voglio innamorarci della bellezza della legalità. Penso che allora questo la scuola lo deve fare, non può esimersi da questo, perché in certi territori la scuola ha la responsabilità, specialmente per questi ragazzi. Questo poi ce lo diceva Don Milani, diceva la scuola non deve essere l'ospedale che butta fuori i malati e cura i sani. La scuola spesso fa questo, cura i sani e butta fuori i malati. Il Comune di Napoli si è dotato di un assessorato ai giovani e all'innovazione. Per le sue attività sono assegnati in bilancio 2,5 milioni. L'assessore è Alessandra Clemente, 28 anni, figlia di Silvia Ruotolo, vittima innocente di camorra. Cosa è cambiato in 18 anni? La prima considerazione sarebbe quella di dire: caspita, a 18 anni non è cambiato nulla, a 18 anni si festeggia la maturità, Napoli è ancora immatura. Invece sono cambiate molte cose, sai, io stessa a 10 anni e quell'efferato episodio e l'immane tragedia che ci toglie mamma, che mi fa scoprire l'esistenza della parola camorra e di tante altre cose che non conoscevo da bambina, i giornali, la violenza. Oggi in ogni scuola della città di Napoli bambini di 10 ma anche più piccoli sono accompagnati costantemente da progetti per la legalità. C'è molta più consapevolezza tra i ragazzi rispetto agli adulti e alcune volte sono i ragazzi che si possono mettere in cattedra. L'assessore ha iniziato a lavorare all'apertura di centri giovanili ma ha anche utilizzato fondi per l'avvio di attività imprenditoriali. Le iniziative sul territorio dunque non mancano, ma le risposte strutturali ancora tardano. Noi nella riunione di sanità ci siamo tornati 2 giorni fa. Ci sono ancora i fiocchi viola davanti alla chiesa in segno di lutto, la processione continua di ragazzi e ragazze davanti all'albero d'olivo piantato in ricordo di Jenny, c'è lo striscione su cui è scritto Jenny vive, ma non c'è il presidio fisso delle forze dell'ordine. La gente al microfono non vuole più parlare. Un ragazzo ci dice: non è cambiato niente, la polizia viene solo quando ci sono le telecamere e poi se ne va. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.